Poi, di lì a poco, entrammo in un paradiso sconosciuto, dove appese ai davanzali delle finestre c'erano le anime dei costruttori di cattedrali, poeti, sognatori di mondi. E viaggiando sotto un cielo di latta, con la nostra 127, arrivammo di fronte ad un immenso ospedale, dove ritte sui balconi, nelle loro vestaglie bianche, gonfiate dal vento, come le vele di una nave, stavano tutto un coro di gestanti, con le mani strette sui ventri gonfi. Poi, prima che tutto fosse finito, le vedemmo alzarsi in volo, come una batteria di Patriot o una nube fitta di colombi, a descrivere una perfetta parabola nel cielo, al cui apice l'ogiva del ventre s'apriva come un fiore di metallo, a liberare un feto pulsante, storcendo l'enorme bocca in un grido, balenava un istante sul sipario di nubi, prima di squarciare l'aria con un fiotto di luce accecante.